Radio 24 Reportage. Nell'anno della scimmia, la comunità cinese in Italia tra tradizione e integrazione, di Cristina Carpinelli. Corre l'anno della scimmia. In tutto il mondo le celebrazioni per la festa di primavera sono già iniziate: danze di dragoni, leoni, tamburi, nastri rossi e lanterne. Due settimane di festa che coinvolgono circa 3 miliardi di persone in viaggio per far ritorno a casa. Si dice sia la più grande migrazione di massa del mondo. Nicoletta Ferro è una studiosa di sostenibilità ambientale e per anni ha vissuto e lavorato in Cina. Dobbiamo immaginare come un agosto, un ferragosto italiano, durante proprio le celebrazioni, durante le festività che durano 15 giorni e che si chiudono con la festa delle lanterne, il paese si blocca totalmente, le aziende chiudono e poi c'è questa transumanza immensa di persone che per l'unica volta durante l'anno ritornano a casa, quindi si muovono dalle città essenzialmente verso le zone rurali, in ogni modo, con ogni mezzo, e quindi si vedono queste maree umane. Già adesso ho visto le immagini della stazione dei treni di Shanghai presa d'assalto da migliaia di persone. Quindi è una cosa impressionante dal punto di vista proprio del movimento che tutto crea e anche emotivamente molto forte. Il momento del Capodanno è anche per molti il momento della resa dei conti. Chi è andato via dalle campagne torna e in qualche modo deve dimostrare di aver avuto successo in città. Ancora Nicoletta Ferro. Ci si toglie le scarpe per entrare in casa e si lasciano le scarpe sul pianerottolo. Per 2 o 3 anni durante il Capodanno cinese prima, le scarpe, soprattutto sportive di marca, taglie da uomo, sparivano. In un paio di occasioni queste scarpe sono riapparse nella stessa posizione dopo il Capodanno cinese. E quindi, fatto un ragionamento collettivo, si è pensato che fossero state sottratte da alcuni lavoranti del palazzo, eccetera, per portarsele come, insomma, trofeo della nuova vita urbana nei villaggi, no? Far vedere, insomma, che ce l'avevano fatta un po'. Più gentili le riportavano indietro. Ma è perché in fondo il viaggio verso casa durante il Capodanno è anche dimostrare che il viaggio al contrario verso la città. Se la si è fatta, infatti, insomma, qualche anno fa era anche la notizia che su Taobao, che è il principale motore di ricerca di e-commerce cinese, venivano offerte delle fidanzate momentanee in affitto, insomma, da portare a casa ai genitori, da presentare, perché insomma anche la faccia rispetto a un possibile matrimonio, un possibile impegno sentimentale dei figli che sono partiti per la città fosse salva una volta tornati nel villaggio. Anche dall'Italia sono tanti i cinesi che partono. Chi resta festeggia ricreando le atmosfere di casa, ma la nostalgia è sempre dietro l'angolo per i circa 265.000 cinesi residenti in Italia. Quella cinese è dunque una comunità molto forte, la quarta per numero, dietro a quella romena, albanese e marocchina. Milano è la città che vanta la più vasta e antica Chinatown d'Europa ed è qui che inizia la nostra storia. Nella parrocchia di Chinatown, ad esempio, si svolge la messa in italiano e cinese. In questa zona subito hanno trovato accoglienza dai parrocchiani della Santissima Trinità. Nella scuola di quartiere invece i bambini, italiani e cinesi, per l'occasione del Capodanno hanno imparato una canzone. Quelli che sentite sono i tamburi che accompagnano la danza dei leoni, una danza propiziatoria che si svolge ogni anno durante il Capodanno cinese. Travestiti da leoni, gli acrobati eseguono uno spettacolo di danza meraviglioso. Avviene anche a Milano. Qui in particolare siamo in una scuola pubblica, la prima e forse ancora l'unica in Italia ad aver preso l'abitudine di celebrare il Capodanno cinese facendo entrare i leoni in classe. Il 30% dei bambini della scuola Giusti di Milano è infatti cinese. ed è qui che è iniziato da qualche anno un progetto di integrazione culturale, ci racconta così il preside Bellini. Ora è uscito fuori da una collaborazione che noi abbiamo con un'associazione che è presente sul territorio, Diamoci la Mano, e con la nostra associazione scolastica GPP, che ha promosso tra l'altro tutta una serie di iniziative di integrazione per i bambini con cittadinanza non italiana nel quartiere e che ha portato sia l'anno scorso che quest'anno appunto a questa iniziativa, che è stata accolta benissimo dai nostri docenti e dai bambini tutti. E poi basta veramente poco anche per far crescere l'autostima nei bambini che magari sono arrivati dalla Cina e si stanno integrando? Certamente, perché per loro è essere protagonisti in questa giornata e li porta proprio a confrontarsi al pari nei confronti anche dei loro compagni di classe. Adesso sta avvenendo da alcuni anni anche quella che è la partecipazione delle famiglie, che è la cosa invece è un po' più difficile proprio per un discorso di culturale. Ecco, quindi c'è anche questo superamento con una partecipazione attiva alle riunioni di classe piuttosto che alle iniziative tutte che vengono fatte dalla scuola. Qualche anno fa addirittura i genitori italiani non iscrivevano i bambini in questa scuola perché c'erano i bambini cinesi, adesso? No, adesso invece c'è stato proprio l'inversione di tendenza, al punto tale che negli ultimi diciamo da 6-7 anni a questa parte abbiamo un implemento di iscrizioni pur mantenendo il numero di alunni con cittadinanza non italiana inalterato. La comunità cinese di Milano è una comunità dunque che sta crescendo, anche solo se confrontata a ciò che era 15 anni fa. In particolare sono i giovani protagonisti di questo grande cambiamento che sta abbattendo molti pregiudizi sia tra i cinesi che tra gli italiani. Come ci racconta Franco Conrengia dell'associazione culturale Show La Show, Diamoci la Mano, un'associazione milanese composta da italiani e cinesi. La comunità era molto più ridotta, ma soprattutto era formata veramente da pionieri, tra virgolette, cioè da quasi sempre maschi senza famiglia che si sono buttati nel lavoro non vedendo altro che quello. Poi piano piano hanno cominciato a radicarsi, si sono sposati prevalentemente tra membri della stessa comunità, sono nati dei figli. Questi primi figli di questi primi immigrati, dico io poverini, erano figli che vivevano nel retrobottega dei negozi, perché i genitori erano genitori che provenivano dalla campagna della Cina, quindi con un livello culturale certamente non molto elevato. In più avevano questo obiettivo fondamentale del lavoro, di avere successo nel lavoro, e quindi i figli praticamente sono cresciuti con un'educazione dal punto di vista culturale certamente molto carente. Questo parlo però di 15-20 anni fa. Gradualmente questa situazione si è cambiata e in più c'è una grossa fascia di cinesi che sono i cinesi studenti, e questi naturalmente appartengono a un ceto culturale particolare, sociale e culturale particolarmente più elevato. Ecco, lo stereotipo gli italiani lo hanno cambiato secondo te? Beh, indubbiamente sì. Mano a mano che si convive, questo fossato, questo stereotipo, questa lontananza, piano piano sì, quindi la tua diagnosi è perfettamente corretta, cioè si sta cambiando giorno per giorno. I più giovani, man mano che subentrano ai più anziani, hanno una mentalità più aperta perché hanno fatto un percorso scolastico, perché hanno avuto... E quindi il solco, se così si può chiamare, tra le due comunità si sta gradualmente riducendo. Sono convinto che Milano sia in questo un po' all'avanguardia, perché le altre comunità sparse sul territorio sono più frazionate, meno evidenti, raramente hanno un quartiere particolare, fatta eccezione per Prato, che è una città cinese, però in cui veramente questo fenomeno del lavoro duro è ancora più evidente che qui. E quindi direi che Milano certamente è una punta più avanzata dal punto di vista sociologico di questa realtà. Le cose cambiano, e se cambiano è grazie all'impegno di tutti. Giovanna Castellina è uno dei genitori che in questi anni si è speso perché avvenissero questi progetti di integrazione. Abbiamo pensato di creare delle occasioni, anche piccole, ma che fossero importanti per creare un legame tra le due anime di questo quartiere, quella cinese e quella italiana. E il Capodanno e l'ingresso del Leone a scuola è una di queste. E che risultati ha dato secondo lei questa iniziativa? Ma per esempio che la scuola ha reagito facendo delle cose in autonomia. Preside è entrato in contatto con l'associazione che si occupa di organizzare la parata e la danza dei leoni per delle questioni di mediazione culturale alla consegna delle pagelle, per esempio. Questi sono dei risultati. In generale, nelle grandi città dove risiedono le comunità più numerose, spesso anche i contrasti si amplificano. Resta però vero anche un altro dato, e cioè che le cose stanno davvero cambiando in fretta e che i ragazzi di seconda o terza generazione si muovono diversamente rispetto ai loro padri. Li Hang, insegnante di cinese. Noi diciamo queste persone banana, perché fuori è giallo, vuol dire come un cinese, ma dentro è bianco, vuol dire come un straniero. Questi ragazzi che studiano in Italia stanno facendo anche grosse cose, cose molto importanti in Italia. I negozi sono più belli, ci sono molte più idee. Sì, non come i loro genitori, ma come dice, loro hanno più idea di loro genitori, ma forse non lavorano come i suoi genitori. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.